Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata, come sempre, anche se magari vi annoierò, alcune informazioni di servizio che però sono utili per tutti. La prima è il nostro sito radio24.it, all'interno del quale potrete dialogare con i conduttori che hanno un blog, come il mio caso, lo conoscete, Guardie o Ladri, lo trovate anche attraverso un motore di ricerca o sull'home page del Sole 24 Ore. La seconda informazione di servizio riguarda ovviamente la possibilità di scaricare via podcast o abbonarsi per avere la possibilità di ascoltare tutte le puntate di tutte le trasmissioni di Radio 24. L'ultima informazione è relativa alla nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Mail che è stata raggiunta da una bella lettera di un nostro radioascoltatore veneto, ci troviamo in provincia di Vicenza. Il nostro radioascoltatore si chiama Stefano Gobbo e ci scrive da Sovizzo, che è appunto in provincia di Vicenza. Allora, il caso che solleva, per quanto personale, in realtà è lo spunto per parlare di qualcosa di ben più generale, di molto molto importante in Italia, vale a dire la procreazione assistita. Ora, che cosa accade? Accade che il nostro radioascoltatore Gobbo e sua moglie Ingrid provano ad avere dei figli, visto che non ci riescono in maniera naturale, attraverso la procreazione assistita. Ma, ed è qui che entra in gioco, come dire, un abuso, anche se è un abuso involontario, dato dalle distorsioni della burocrazia, della difficoltà che si incontrano quando si ha a che fare con i sistemi sanitari nazionali o regionali, ecco lì che appunto questa procreazione assistita ad un certo punto si inceppa, pur in una struttura di altissimo valore come quella, come la struttura ospedaliera di Noventa Vicentina, e in una regione come la regione Veneto, che ha delle punte di eccellenza straordinarie. È una trasmissione, che è una puntata questa, che ci serve per capire, per dare anche alcune chiavi di lettura. Allora, intanto io do il buongiorno al dottor Stefano Gobbo di Sovizzo. Buongiorno Gobbo. Buongiorno, buongiorno a tutti. E do il buongiorno al dottor Edoardo Vanzetto, che è il direttore sanitario dell'ospedale di Noventa Vicentina. Buongiorno dottor Vanzetto. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora dottor Gobbo, ci racconti un po' qual è stata la storia sua e la storia che lei ha condiviso con sua moglie Ingrid nel tentativo di farsi assistere dall'ospedale di Noventa Vicentina, visto che non riuscivate ad avere figli in modo naturale. Ecco, beh, vi racconto in breve la nostra storia. Certo. Dico nostra, chiamo in causa anche mia moglie e molte altre coppie che si trovano nella medesima situazione. A settembre 2006 ci siamo rivolti per la prima volta al centro di procreazione medico assistita di Noventa, che risulta essere l'unico centro in provincia di Vicenza convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che effettua la FIVET ICS-ITESA. Ecco, non andiamo troppo nello specifico, sì, perché altrimenti i radioascoltatori non capiscono FIVET e quant'altro. Diciamo che vi siete rivolti per un aiuto ad avere dei figli, ecco, questo è il punto. Sì, dico questo qua perché a Vicenza fanno dei livelli, a Noventa vanno in più profondità. Ok, benissimo. Ok, poi da lì abbiamo fatto molti esami, una cosa infinita di esami. Da lì siamo stati dirottati all'ospedale di Padova, anche lì altri ulteriori esami presso sono stati seguiti dall'equipe del dottor Foresta. Poi quello che fa arrabbiare è che all'inizio mi era stata diagnosticata criptodospermia, che poi si è trasformata in adospermia perché col passare del tempo le cose vanno a peggiorare. Sì, ma non ci addentriamo comunque nei particolari tecnico-scientifici che non interessano. Diciamo che lei ha una trafila che dal settembre 2006 la porta al settembre 2007 a Padova, ma di lì poi di nuovo nell'ospedale di Noventa Vicentina nel 2008. Arriviamo a settembre 2008 che ci chiama da Noventa per avvisarci che finalmente sarebbe toccato a noi, sarebbe stato il nostro turno. Abbiamo dovuto nuovamente rifare tutti gli esami perché ovviamente i precedenti non erano più validi, perché quando passa un tot di tempo non possono più ritenerli validi. Ci hanno anche fatto fare dei colloqui con un psicologo, non capisco il motivo. Poi non si sa più nulla, nessuno ti chiama più, nessuno ti dice stai ad aspettare qualcuno, qualcosa che non avverrà mai, sembra. E in pratica io ho insistito, ho chiamato più volte, in via ufficiosa, dopo un certo punto inizia a entrare in confidenza con il personale, certo, e dicono che manca la figura di una biologa e che probabilmente stanno provvedendo, stanno facendo dei concorsi, non lo so, stiamo qua ad aspettare una biologa. Allora, io la fermo qui, signor Gobbo, perché la storia è abbastanza chiara. La riassumo per i nostri radioascoltatori, perché vale la pena. Allora, settembre 2006 questa coppia decide di cominciare il suo percorso per avere dei figli assistiti dall'ospedale di Noventa Vicentina. Sono passati ormai quasi 3 anni tra un rimbalzo ed un altro, vale a dire tra l'ospedale di Noventa e quello di Padova. Siamo al 2010 e casualmente il nostro radioascoltatore, la coppia, viene a scoprire che il motivo per il quale non è possibile in questo momento, come dire, terminare questa lunga trafila è perché l'ospedale di Noventa Vicentina non avrebbe una biologa che può seguire la coppia. Allora, se questo fosse accaduto, innanzitutto se fosse vero, nel senso che io non metto in dubbio ovviamente quello che ci racconta il nostro radioascoltatore, ma se questo è vero, accade a Noventa Vicentina. Fosse accaduto o accadesse a Palmi oppure in un qualunque ospedale del sud, i giornali si scatenerebbero per dire i soliti fannulloni del sud, la solita burocrazia sanitaria che al sud non funziona, fa schifo, fannulloni, pelandroni, eccetera eccetera. Allora, questo accade nel Veneto. Dottor Vanzetto, a lei ovviamente la replica. Sì, innanzitutto mi rammarico per la storia del signor Gobbo e della consorte, che purtroppo non sono storie che si ripetono, e questo ci fa sempre molto dispiacere. Sì, devo dire una cosa, in effetti la procreazione medicalmente assistita presso l'ospedale di Noventa si è interrotta per la mancanza di questa figura del biologo. Però bisogna specificare perché questa figura del biologo manca. Certo. Allora, dobbiamo dire che, faccio una premessa, che l'ospedale di Noventa è uno dei pochi centri regionali autorizzati dalla Regione Veneto ad erogare prestazioni di procreazione di secondo e terzo livello, che sono quelle prestazioni più complesse cui il signor Gobbo veniva a riferirsi. Esatto. A maggior ragione però un biologo dovrebbero averle, sì, queste strutture. Il problema è questo: la figura del biologo, da quando il centro di Noventa è partito, e quindi da molti anni, è sempre stata sostenuta da una contrattista, da un contratto che era pagato da enti terzi. Certo, e questo purtroppo... Da enti bancari. A un certo punto questi ultimi hanno deciso di dirottare queste donazioni verso altri bisogni in ambito sanitario. Ecco, lei è veramente, come dire, ammirevole per lo sforzo e la calma, perché sono sicuro che anche per lei questo sarà un momento molto difficile da affrontare, perché essere in prima fila, bravi, capaci, e non poter intervenire perché manca un biologo, beh, io credo che lei sia il primo a veramente ad essere infuriato nero, o sbaglio? Ma io sono, come dire, rammaricato ogni volta che mi trovo di fronte alle problematiche di queste coppie che cercano la soluzione a questo problema che è importante. Allora, fosse, ripeto ancora una volta, successo a Palmi questo, io credo che i giornali ci sguazzerebbero, ma credo per mesi, perché sarebbe una storia straordinaria da raccontare di inefficienza del sud. Questo accade a Noventa Vicentina. Allora, dottor Vanzetto, diamo una speranza al dottor Gobbo, a sua moglie Ingrid e ai tanti italiani veneti che si rivolgono alla vostra struttura per poter avere dei figli. In questo momento siamo impossibilitati alla risposta per un motivo molto semplice, ed era quello, la continuazione del pensiero, certo, che avevo iniziato poc'anzi. Non, ripeto, la figura del biologo, essendo stata sempre, diciamo così, remunerata con borse di studio, non è mai entrata nell'organico dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia. Era una figura un di più. Ma fare un concorso, ad esempio, no? Questo è il posto. Lei sa che c'è stata una finanziaria. Certo. La finanziaria ha dettato fino all'altro giorno le regole in modo che le spese, i costi del personale non potevano superare quelli del 2004. Guardi, è una vicenda veramente allucinante. Mi scusi, quanti pazienti seguite per questo caso di procreazione assistita e quanti rimangono ancora in attesa a questo punto? Diciamo che erano in lista d'attesa certamente alcune decine di coppie, le quali con il 2009 si sono viste purtroppo chiudere le porte. Dottor Vanzetto, io la ringrazio veramente per questo suo intervento, anche se questa vicenda allucinante io spero di continuare a seguirla anche nel futuro, perché devo ringraziare per la disponibilità l'ospedale, ovviamente, oltre che il nostro radioascoltatore. La puntata si conclude qui, grazie ai nostri ospiti, in regia Pietro Lacorte, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.